Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Raccontiamo oggi una delle vicende paradossali, ma purtroppo abbastanza frequenti, che succedono in Italia. Il fatto che si possa essere multati in una città pur essendo totalmente da un'altra parte e senza avere il dono dell'ubiquità. Cosa è successo? Lo chiediamo all'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico. Ben trovata. Ciao Mirko, grazie, buongiorno a tutti. Dunque, com'è possibile che uno si trovi in una città e venga multato in un'altra? Beh, noi abbiamo avuto moltissime segnalazioni di casi di questo tipo, che sembrano così almeno apparentemente assolutamente paradossali. Da ultimo è successo ad un cittadino mestrino che si è visto recapitare a casa una multa per un divieto di sosta presa a Napoli, cosa che lui a Napoli non c'era mai stato, e quindi da qui è partita l'avvertenza nei confronti di questo della polizia partenopea sostanzialmente. Ovviamente verificando la targa, la macchina, eccetera, e arrivando a scoprire che... Esatto, arrivando a scoprire che lui, in un giorno in cui si trovava con la moglie al supermercato a fare compere, avrebbe preso, in realtà, secondo la Polizia Municipale di Napoli, una multa per divieto di sosta. Allora, in prima battuta, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto alla pubblica amministrazione, in questo caso alla Polizia Municipale, di annullare il verbale in autotutela, perché ricordiamo che è uno dei rimedi che spetta a tutte le pubbliche amministrazioni. Nel momento in cui c'è un errore materiale, un verbale di contestazione o un qualsiasi verbale, la possibilità dell'annullamento in autotutela, quindi senza ricorrere alla giustizia ordinaria. Cioè, scusa sì. Gioia, i vigili urbani stessi annullano il verbale perché magari hanno sbagliato, che ne so, una lettera o una cifra della targa. Esatto, in questo caso di specie era stato appunto precisato al corpo di polizia municipale che il signore si trovava in un altro posto, quindi avevamo addirittura la prova, nel senso che fortunatamente questo signore aveva anche conservato lo scontrino fiscale che attestava che quel giorno si trovava a far compere in un centro commerciale di Mestre. In più, cioè, era stata indicata anche la moglie in qualità di testimone, che avrebbe appunto confermato il fatto che non si trovava a Napoli, e è stato richiesto appunto l'annullamento del verbale. In tutta risposta la pubblica amministrazione ha rigettato la richiesta e pertanto sono stati costretti ad adire alle vie ordinarie, che sono ovviamente, ricordiamo, il prefetto o in alternativa il giudice di pace. Ecco, però di fatto in questo caso non avevano sbagliato a scrivere il numero di targa, la targa corrispondeva e quindi è una targa doppia. Esatto, noi abbiamo avuto moltissime segnalazioni in sede Adico di verbali di questo tipo, dove sostanzialmente la targa corrisponde, ma il più delle volte non corrisponde al modello dell'auto, e questo è facilmente rilevabile dalle foto segnaletiche, chiamiamole così, che vengono poi recapitate a richiesta del cittadino dal corpo di polizia municipale che ha elevato il verbale. E questo solitamente lo vediamo perché sulle foto, faccio un esempio, l'Audi, il modello di autovettura Audi ha sicuramente delle luci diverse rispetto al modello di autovettura Fiat, faccio un esempio. Ecco, quindi da queste foto si vedeva che da piccoli particolari il modello dell'auto non era lo stesso, non era quello del signore. Quindi, malgrado l'evidenza dell'errore e l'evidente infondatezza del verbale, questo verbale non è stato annullato in autotutela e siamo stati costretti a ricorrere al ricorso al giudice di pace. Verificando appunto che questa targa era stata di fatto clonata. Esatto, esattamente, proprio così. Sì, purtroppo questo è un fenomeno che sembra paradossale, ma è un fenomeno molto diffuso, tant'è che abbiamo avuto moltissimi casi di questo tipo e che il più delle volte purtroppo non si concludano con un semplice annullamento in autotutela, ma sono costretti a dire la giustizia ordinaria, con conseguente rincaro dei costi per il consumatore, quindi per l'automobilista, e anche una notevole perdita di tempo. Quindi in tanti casi, come si suol dire, oltre al danno alla beffa, ecco. Ecco, le targhe ovviamente hanno dei numeri che sono abbastanza consecutivi, adesso siamo arrivati, mi pare, come prime due lettere a ET o EV, qualcosa del genere, ma se uno vuole utilizzare un codice dei numeri precedenti, sicuramente ci prende, perché sono numeri chiaramente esistenti. Poi la bravura sta anche nel duplicare, non solo nel prendere il numero di targa che già esiste, cosa che è abbastanza facile, lo può fare credo anche un bambino, ma poi è produrre effettivamente fisicamente una targa in modo credibile. Ah beh sì, sicuramente, ma quello poi sai, ci sono persone che vivono su, che campano su questo, quindi e poi di un nostro mestiere, come si suol dire. Allora, come dovesse capitare ancora a qualcun altro di ricevere multe da città dove in realtà lui non è mai stato o non era sicuramente in un dato momento, che cosa si può fare? Allora, noi ricordiamo in prima istanza sicuramente quello di chiedere al corpo di polizia municipale che ha levato il verbale l'annullamento in autotutela, che come dicevo prima è una sanatoria che spetta alla pubblica amministrazione. E in secondo luogo, nel caso in cui questa istanza venga respinta, rimangono poi i due rimedi tradizionali, che sono o ricorso al giudice di pace entro i 30 giorni dalla notifica del verbale, o in alternativa ricorso al prefetto entro i 60 giorni dalla notifica. Quindi, in qualche maniera, se si è sicuri di aver ragione che la propria targa è stata clonata, ci si arriva. Quanto tempo può servire così per la burocrazia per arrivare a buon fine? Ah, guarda, nel caso in cui ci siano annullamenti in autotutela, la cosa è abbastanza immediata, nel senso che nel giro di qualche giorno poi il verbale viene annullato e la questione viene definita positivamente. E negli altri casi, però nel caso in cui si interpelli o il giudice di pace o il prefetto, i tempi ovviamente sono molto molto più lunghi, perché poi anche qui dipende dall'ufficio giudiziario che viene adito, dipende da tutto un insieme di fattori, solitamente si può arrivare anche ad un anno, ecco. Però insomma è un tempo abbastanza ragionevole se si sa di aver ragione. Vicenda dunque che si può concludere bene, questa della clonazione delle targhe. Ringraziamo l'Adico, l'avvocato Gioia Barbato, buon lavoro. Grazie Mirko, saluti a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.